Jenny ha 16 anni e gli occhi blu, con i suoi capelli come il grano, va a piedi nudi verso una città, cercando il viso di un ragazzo che non sogna più. Stringe in mano la fotografia, ma dove può trovarlo? Jenny non lo sa. Spinta da una cosmica energia, vede un corpo soffocato da questa arida realtà. Riconosce che lui, perché non ride mai. I suoi pensieri e la malinconia che lo affoga come una marea e gli salva il cuore dal dolore della sua follia, mentre il mondo va via senza avere pietà. Camminando a piedi.